Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera parliamo di un tema che ci accompagnerà a lungo in questi mesi in cui si ricorda il centenario della Prima Guerra Mondiale, che per l'Italia è in realtà cominciata nel 1915. Questa sera vi propongo il testo di un giornalista molto noto, Aldo Cazzullo, che si intitola La guerra dei nostri nonni, è pubblicato da Mondadori, 248 pagine, 17 euro. Questo libro rappresenta un osservatorio particolare della Grande Guerra, realizzato attraverso le storie della gente comune, che Cazzullo ha recuperato da varie fonti, ritenendo che, morto nel 2005 a 110 anni l'ultimo fante, Carlo Orelli, della Grande Guerra, tocchi a noi non far perdere la memoria delle storie della Prima Guerra Mondiale. E qui troviamo tanti fili che raccontano quel conflitto, naturalmente con toni meno epici e meno retorici di quelli cui siamo spesso abituati, ma che fanno risaltare in particolare la grandezza modesta di un popolo di umili che seppe vincere una sfida per l'epoca inaudita. E su questo adesso sentiamo l'autore. Buonasera, Aldo Cazzullo. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Aldo Cazzullo, che cosa l'ha tratta nella Grande Guerra? In fondo questo tema è un po' estraneo, almeno è rimasto fino adesso estraneo ai suoi approfondimenti giornalistici. Beh, guardi, anch'io, io stesso sono, devo dire, sorpreso dal successo del libro. Non mi aspettavo una cosa del genere. Io l'ho fatto più che altro un po' per una sorta di debito con mio nonno, che era un ragazzo del 99 e che della guerra non parlava mai, ma che aveva il profondo orgoglio, che era comune a tutta la sua generazione, di aver fermato gli austriaci sul Piave e di aver salvato l'Italia. E poi l'ho fatto un po' anche perché sono convinto che in fondo noi siamo più legati all'Italia, alla patria, di quello che pensiamo. Per il senso dello Stato bisognerà attendere altri 100 anni, però questo legame con la patria è più forte di quello che pensiamo. Ne ho avuto una prima riprova quando ho aperto una pagina Facebook per chiedere ai lettori di segnalarmi le storie dei loro nonni nella Grande Guerra. E sono stato sepolto da mail, alcune con storie fantastiche che ho riportato nel libro, altre che mi segnalavano storie più normali, dicendomi mio nonno non era un eroe, ma era una persona, una brava persona, e soprattutto amava l'Italia, credeva nell'Italia e non si riconoscerebbe nell'Italia così com'è diventata. E questa è una cosa che mi ha segnato molto, e il successo del libro conferma il fatto che questo legame con la patria è più solido di quello che pensiamo. Ecco, fermiamoci a proprio questa parte, alla sua inchiesta su Facebook, che troviamo nel capitolo finale, che si intitola Spoon River su Facebook. Esatto. E che percezione si è fatta lei l'idea che hanno gli italiani di oggi della Grande Guerra? Quanto conta nel patrimonio familiare degli italiani questo ricordo? Allora, per le generazioni più giovani meno, perché la confondono con la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, per i giovani hanno una visione molto piatta, non tridimensionale della storia. Il Novecento è finito ed è lontano tanto quanto l'età comunale o le guerre puniche. E quindi fanno anche un po' fatica a distinguere una guerra dall'altra. Le persone, diciamo, ma non lo dico questo con un giudizio, per carità, non mi permetto, sento anche in loro la ricerca delle radici familiari che coincidono con quelle patriottiche, che è un fenomeno che a maggior ragione si sente nella generazione mia e in quelle precedenti. Cioè, la storia della famiglia di ognuno di noi incrocia la storia nazionale, perché in ogni famiglia c'è un padre, un nonno, un bisnonno, o molto spesso una donna, che ha contribuito a fare la storia d'Italia, che ha combattuto le guerre, che si è impegnata nella ricostruzione. E molto spesso le mail arrivano da donne, perché sono le donne che sentono molto forte questo legame con la storia patria in senso proprio etimologico, quindi non nazione, ma la terra dei padri. E poi perché la Grande Guerra segna l'ingresso delle donne nella storia. Le donne o vanno al fronte, croce rossine, portatrici, spie, inviate di guerra, prostitute, donne che si travestono da uomini per andare a combattere, ma ci sono poi le donne che restano a casa e prendono il posto dei mariti, dei padri, dei fratelli, e guidano i tram, spengono gli incendi, consegnano la corrispondenza e soprattutto vanno a lavorare in fabbrica come operaie, scioperano per i loro diritti, si iscrivono all'università, si laureano, insegnano, diventano medici, diventano avvocati. Insomma, la Grande Guerra è l'ingresso della donna nella storia, e secondo me questa guerra gli italiani non l'avrebbero vinta senza le italiane. E infatti questo suo libro insiste molto sul ruolo delle donne. A un certo punto c'è un capitolo intitolato a una figura particolare, la nostra Anna Frank. Virginia Tranquillini, ragazza 14enne, trentina, morta nel campo di prigionia austriaco, che aveva tenuto un diario carotto della sua morte, che è un documento bellissimo che ho trovato nell'archivio del Museo della Guerra di Rovereto. L'ho chiamata la nostra Anna Frank, con molto rispetto, e non voglio assolutamente paragonare i lager nazisti ai campi di prigionia, però è anche giusto ricordare che i trentini e i triestini, che erano italiani di lingua, di cultura, di cuore, ma erano sudditi austriaci, furono i maschi mandati a combattere in Galizia contro i russi e le femmine e i vecchi furono mandati nei campi di prigionia in quanto italiani, ed è una pagina totalmente dimenticata. Così come è totalmente dimenticata la pagina delle violenze sessuali subite dalle donne in Friuli e nel Veneto occupato dopo Caporetto. Il suo libro con molta freddezza si sofferma sull'ottusità di molti ufficiali, anche altissimi ufficiali. Tra l'altro qualche giorno fa avrà letto che a Milano è stato celebrato il processo al generale Badoglio, di cui parla anche lei, in termini non sempre lusinghieri. Ecco, per quale ragione gli ufficiali italiani diedero prova, non tutti ovviamente, di questa stupidità? Ma gli alti ufficiali si macchiarono di veri e propri crimini, dimostrando il massimo disprezzo nei confronti delle vite umane, mentre spesso invece gli ufficiali di più basso rango, che stavano proprio a livello, insomma, vivevano con le truppe, stavano a contatto con i soldati, beh, loro invece erano pronti anche a morire al posto dei loro uomini. C'è una storia che mi ha molto colpito, di questo ufficiale degli Alpini che deve guidare un attacco assurdo lungo un canalone e basta un cecchino austriaco per far fuori tutti gli italiani, e lui chiede di poter sospendere l'attacco, ma l'alto comando gli risponde di no. Allora esce di persona, da solo, si fa uccidere, e a quel punto l'attacco deve essere fermato per forza perché non c'è più l'ufficiale che lo deve comandare. Quindi per un ufficiale che si fa uccidere per le sue truppe, purtroppo ci furono molti altri ufficiali che invece avevano per la vita umana il massimo disprezzo, e poi le conseguenze si sono viste a Caporetto, quando l'esercito italiano è crollato prima di risorgere sul Piave. Lì cominciò una seconda guerra, una guerra di resistenza. Non si trattava più di andare all'assalto di montagne che nessuno aveva mai sentito nominare o di prendere città in cui nessuno era mai stato. Si trattava di difendere la propria terra. E beh, i nostri nonni, i nostri fanti contadini, difendere la propria terra era la cosa che sapevano fare meglio, e infatti il Piave fu il loro capolavoro. Tra i fanti non c'erano solo contadini, ma anche futuri grandi personaggi, addirittura un futuro santo come Angelo Roncalli. Lei come lo ricorda? Ho trovato queste lettere di Angelo Roncalli a suo fratello, che sono lettere piene di amore per la patria. Cioè, Angelo Roncalli amava l'Italia, non rifiutò di fare cappellano militare e voleva fare proprio lavorare come infermiera, lavorare nella sanità, poi divenne anche cappellano militare. Però insomma aveva questo senso della patria che non era poi così scontato, anche perché poi il Vaticano all'epoca non aveva rapporti con l'Italia, e quando Benedetto XV parlò di inutile strage, l'espressione assolutamente condivisibile fu interpretata come un aiuto all'Austria, che invece era una monarchia cattolicissima. E insomma Papa Roncalli fin da giovane insomma amava profondamente il suo, il nostro paese. Che opere letterarie le sono state utili in questa ricognizione? A me vengono in mente soprattutto due libri, quello di Lusso e quello di Paolo Monelli. Lei che a cosa si è abbeverato? Naturalmente ho letto sia Nanno sull'Altipiano che Le scarpe al sole, però ho lavorato soprattutto sulle lettere, sulle cartoline, sui diari di guerra, sui testi delle persone comuni. Cioè, ho cercato di raccontare la grande guerra con gli occhi di chi l'ha fatta. E quindi è stata una discesa negli inferi di una sofferenza che oggi noi non riusciamo nemmeno ad immaginare, ma è stata la riprova di una forza morale, di una capacità di resistenza che avevano i nostri nonni e che secondo me non può essere andata dispersa con il passare del tempo. E questa forza morale da qualche parte l'abbiamo ancora dentro di noi. E insomma ci tornerebbe utilissimo anche quest'altra guerra che stiamo combattendo contro la crisi. Penso che sta a noi ritrovarla dentro noi stessi e riaccenderla dentro i nostri figli, ricordando che quell'altra guerra i nostri nonni l'hanno vinta. Grazie ad Aldo Cazzullo, autore della Guerra dei nostri nonni. Buona serata. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. E una testimonianza letteraria della vita in trincea e dei drammi che vi si svolsero è Paura, il primo racconto di una raccolta di quattro di un grandissimo autore della letteratura italiana fra l'8 e il 900, cioè Federico De Roberto. Questo volume è pubblicato da Edizioni EO, 142 pagine, 14 euro. E in particolare questo questa novella che dà il titolo al libro è considerata tra le migliori di De Roberto per l'efficacia nel descrivere l'assurdità di molte operazioni militari, sicuramente votate al disastro e ovviamente alla perdita di tante vite umane, costrette a immolarsi inutilmente, descritte anche nel libro di Cazzullo. E a questo punto... Il confettino. Alla Grande Guerra dedica una serie Il battello a vapore e questo volume si intitola Luisa Mattia, Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba, 190 pagine, 10 euro, con apparati di approfondimento di Paolo Colombo e una nota storica di Luciano Tass. Questa è la storia di Benny, un sedicenne tamburino che si arruola e incontrerà a Fossalta di Piave un altro volontario che così viene descritto: un bel tipo, alto, occhi brillanti, un ciuffo di capelli castani folti e pettinati all'indietro, il sorriso luminoso. Aveva una divisa che Benny non conosceva. Le mostrine sulla spalla non avevano gradi, ma solo una spilla con le lettere US, e naturalmente era Ernest Hemingway, con il quale nascerà una grande amicizia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di due grandi dame. La prima è a noi contemporanea ed è Marella Agnelli, moglie dell'avvocato Gianni, nata principessa Caracciolo di Castagneto, classe 1927, che con Marella Caracciolo Chia è autrice del libro Coltivato il mio giardino, pubblicato da Delfi, 304 pagine, 55 euro. Questo libro di grande formato, ricco di illustrazioni. Tra l'altro Marella Agnelli è stata ritratta dai maggiori fotografi mondiali. Per esempio, al suo matrimonio nel 1953 fu seguita niente meno che da Robert Doisneau. Quindi dicevo, un libro bello, rilegato, insomma un libro particolarmente curato che rievoca una vita ovviamente straordinaria condita dalle passioni che l'hanno segnato, cioè quella per i giardini e quella per l'arte. Questa vita è scandita in particolare dalle case, ovviamente numerose, lussuosissime, curate e vissute da Marella Agnelli fino a qualche anno fa col marito Gianni. Ma questo non è soltanto un libro patinato di belle immagini. Innanzitutto vediamo scorrere nelle pagine i protagonisti della vita mondana e culturale di tutto il mondo praticamente lungo l'arco di 60 anni, ma poi ci sono dei testi che descrivono questo mondo da un osservatorio certamente privilegiato, ma non meno interessante. Beh, sentiamo per esempio proprio da queste pagine come Marella racconta e ricorda l'approccio, che non fu facilissimo, del futuro marito con i propri genitori quando l'avvocato chiese la mano della principessa. Gli Agnelli erano una sorta di clan. Erano sette tra fratelli e sorelle e si assomigliavano molto anche nel modo di parlare, di ridere e scherzare. Per di più, erano cresciuti assieme a una miriade di cugini. Edoardo e Virginia Agnelli erano morti giovani e Gianni, a 24 anni, si era ritrovato a capo della famiglia. All'epoca Umberto, il più piccolo, aveva appena 11 anni. Gianni era molto legato ai fratelli e l'idea di dovermi confrontare con il suo clan mi rendeva inquieta. Per fortuna furono tutti molto affettuosi, non solo la famiglia, ma anche le persone che prestavano servizio in casa da tanti anni. Erano felici che a 32 anni il loro avvocato, come lo chiamavano già allora, avesse deciso di mettere la testa a posto. Quando Gianni venne a Roma per chiedere la mia mano, come voleva la tradizione, ero in uno stato di ansia estrema. Mi misi addirittura a origliare dietro la porta mentre parlava con i miei genitori. Mia madre inizialmente non era entusiasta all'idea di questo matrimonio. Il suo lato puritano la induceva a guardare con sospetto all'alone di glamour che avvolgeva al nome Agnelli. E certo non le faceva piacere la presenza costante di Gianni nelle cronache mondane. Mio padre, per sua natura meno portato a giudicare, aveva un'attitudine benevola e possibilista verso la nostra unione. L'altra grande dama è un'inglese del Settecento, Lady Mary Wortley Montagu, vissuta tra il 1689 e il 1762, autrice di Cara bambina, lettere dall'Italia alla figlia. Sono pubblicate queste lettere da Adelphi, 312 pagine, 16 euro, il libro è curato da Masolino D'Amico. Lei è una dama inglese dalla vita burrascosa, era fuggita al matrimonio che le aveva combinato il padre, aveva sposato chi voleva lei, che tra l'altro poi era diventato ambasciatore a Costantinopoli Costantinopoli, dove la Montagu visse per 2 anni. Proprio da Costantinopoli ella tornò per dedicarsi in Inghilterra alla campagna per l'immunizzazione del vaiolo dal quale era stata colpita lei stessa. Fu una scrittrice, protagonista della vita culturale del suo tempo, e queste lettere risalgono al 1747, quando Mary è in Italia, nel Bresciano, sotto le interessate attenzioni di un conte Ugolino Palazzi. Sarebbe rimasta in Italia e poi finalmente a Venezia, che era la sua meta, per una decina d'anni. E da qui scrisse queste lettere alla figlia, Lady Butte, che nel frattempo era diventata niente meno che moglie del primo ministro. E la fama di Lady Mary è legata proprio alle lettere, di cui queste sono considerate un campionario particolarmente importante per la qualità letteraria, ma soprattutto per le riflessioni sulla cultura e sull'educazione dei figli. Riflessioni che ci danno uno spaccato molto significativo delle condizioni in cui molte donne coraggiose dovettero operare per cambiare la lettura dominante. Sentiamo per esempio queste righe con alcune raccomandazioni alla figlia. Gennaio 1750. Mia cara bambina, mi preoccupa moltissimo sentirti lamentare la cattiva salute in un momento della vita in cui dovresti essere nel fiore delle forze. Spero di non doverti raccomandare la cura che ne dovresti avere. L'affetto che hai per i tuoi figli è sufficiente a importi il massimo riguardo per la conservazione di un'esistenza tanto necessaria al loro benessere. Non dubito della tua avvedutezza nella loro educazione, né posso dir nulla di puntuale da questa distanza, poiché i caratteri diversi richiedono un diverso piglio. In genere, non cercare mai di governarli, come fa la maggior parte della gente, con l'inganno. Se si scoprono imbrogliati, anche in piccole cose, questo sminuisce talmente l'autorità del loro istruttore da far loro trascurare gli ammonimenti futuri di costui. E, se possibile, tirali su liberi da pregiudizi. Quelli contratti nell'infanzia spesso influenzano tutta la vita successiva, del che ho visto molti malinconici esempi. È molto più facile dare regole che praticarle. Io mi rendo conto che il mio carattere naturale è troppo indulgente. Credo sia l'errore meno pericoloso, tuttavia è pur sempre un errore. Posso solo dire, in verità, che non mi risulta in tutta la vita di aver mai tentato di impormi su di te, né di rappresentarti falsamente qualsiasi cosa ti abbia descritto. Se le tue figlie tendono ad amare la lettura, non correggere la loro inclinazione, nascondendo loro la parte divertente della cosa. È necessaria per lo svago delle donne come per la reputazione degli uomini, ma non insegnare loro ad aspettarsene né a desiderarne alcun plauso. Andiamo un pochino più avanti nel tempo, rimanendo però a Londra, con un ritratto dell'imperatrice Vittoria, di cui è autore un prolifico e fortunato autore di biografie, che fu anche letterato e saggista, Lytton Strachey, 1880-1932, di cui Castelvecchi sta ripubblicando le biografie e i saggi storici. Questa si intitola La regina Vittoria, 234 pagine, 18,50 euro, tradotto da Rosalia Lupi, e nella stessa serie è uscito dello stesso autore anche la biografia di Voltaire, 120 pagine, 14,50 euro, tradotto da Federico Miraglia. Naturalmente la gradevolissima biografia di Vittoria ricostruisce fedelmente una lunga pagina di storia non soltanto inglese, che vede Londra affermarsi definitivamente come la grande potenza imperiale del tempo. Quelli sono anni dominati politicamente da due poderose figure, Gladstone il liberale e Disraeli il conservatore, che conquisterà la sovrana, il quale trattava Vittoria in modo molto diverso rispetto a Gladstone. Dice infatti Strachey che fin dal primo momento Disraeli aveva capito che per trattare con la fata il metodo appropriato di avvicinarla era l'esatto opposto di quello di Gladstone. Non era sua abitudine tenere lunghe arringhe d'esortazione, dilungarsi in tono coscienzioso e ufficiale. Lui amava spargere fiori sul cammino degli affari, riassumere un grave argomento in una frase felice e insinuare ciò che aveva in gentilmente con un'aria di amicizia e di confidenziale cortesia. Il volume di Voltaire, in particolare, parte proprio dalla visita che il grande filosofo fece in Inghilterra nel 1726, un viaggio che, come spiega l'autore, si sarebbe rivelato decisivo. Quel viaggio, infatti, dice, segna una svolta nella storia della civiltà, fu il primo passo di un lungo processo di scambio gravido di conseguenze importanti tra la cultura francese e quella inglese. Un'altra grande dama che noi conosciamo soprattutto per la trasposizione letteraria, ma che fu un personaggio in grado di infiammare la Francia, fu Alphonsine Plessis, più nota come la Dama delle Camelie, quella del romanzo di Dumas, e che diventò poi La Traviata di Giuseppe Verdi. E ne troviamo la storia in un libro di Julie Cavanagh, giornalista ed esperta di danza, che si intitola La ragazza delle camelie, vita e leggenda di Marie Duplessis. È pubblicato da Einaudi, 234 pagine, 19,50 euro, e tradotto da Fabiano Massimi. La presentazione non lascia dubbi, infatti nella prima riga si legge: Marie Duplessis fu la giovane cortigiana più ammirata della Francia di metà Ottocento. Maria era arrivata da Parigi, dalla Normandia, era di origine modestissima, addirittura scrive l'autore che era un'orfanella selvaggia che sfruttava una precoce sensualità per mendicare cibo. Ma lì nella capitale, in pochi mesi, Marie era diventata una delle protagoniste della vita mondana della capitale, dove sarebbe poi morta di tisi appena 23enne. E l'anno successivo alla morte, cioè nel 1843, il romanzo di Dumas rinverdì il mito del Duplessis. Il pubblico, affascinato allora come oggi dalla vita privata delle celebrità, scrive l'autrice, lesse la finzione come fosse realtà e si entusiasmò all'idea di venire introdotto nell'appartamento di una demi-mondaine, dove poteva origliare le conversazioni più sconce che si tenevano alla sua tavola e osservare gli arredi in palissandro, le statuine di Saxe, le porcellane di Sèvres, perfino il boudoir con il suo ricco stuolo di ampolline d'oro e d'argento. Il libro ebbe un successo travolgente, Dumas ne ricavò un dramma e Verdi nel 1863 un'opera che dopo un iniziale insuccesso avrebbe ben presto trionfato a Londra e a Parigi. E in questo libro troviamo appunto la storia di Alphonsine, che poi sarebbe diventata appunto Marie a Parigi, e lo spaccato di un'epoca che la Dama delle Camelie dominò con lo sfarzo testimoniato da queste righe. Il gusto di Marie, in piena evoluzione, era in realtà molto semplice, dato che la fanciulla si accontentava solo del meglio. E ora che poteva avere tutto ciò che desiderava, la giovane si assicurò che non solo il suo appartamento, ma qualsiasi cosa collegata al suo aspetto fosse di qualità eccelsa. Abbiamo il resoconto di un certo Stephen Drake, mandato a setacciare l'Inghilterra in cerca di puro sangue, perché Marie voleva che a tirare la sua carrozza fosse solo l'aristocrazia equina. E fu esaudita. Paludati in pettorali di cotta di maglia, culotte scamosciate e stemmi di lucida pelle sbalzata, i suoi cavalli vestivano bene quanto lei. Per le sue promenade à cheval, Marie aveva ordinato al famoso sarto francese Human, una giacca da cavallerizza di velluto castano e morbido cashmere e una sottana e un corpetto in stile basco, riccamente decorati, da indossare sopra una camicia dalle maniche strette abbottonata ai polsi. Il parrucchiere di Marie le faceva visita ogni giorno. I suoi accessori erano i più raffinati di Parigi. Guanti con bottoni e merletti alla Medici di Mayor, fornitore della regina, della corte, dell'imperatrice di Russia e delle signore granduchesse. Scarpe di Jacob, che aveva una boutique anche a Londra in Bond Street. Saponette portoghesi del profumiere della duchessa di Nemours. Quando riceveva in casa, Marie ordinava cene elaborate allo Chevet o alla Maison d'Or, le cui specialità erano l'omble chevalier, pregiato pesce d'acqua dolce, e fegatini di rana pescatrice saltati. Soltanto le sue spese domestiche, stima Vienne, ammontavano a 40.000 franchi al mese, pagati dal conte, il quale in aggiunta le faceva avere qualsiasi cosa desiderasse. E con questo ringrazio Lucia Tolve e Leonardo Silicato in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.